Do il buongiorno ad Andrea Monchi-Sismondi, il direttore artistico dell'Atelier C. Buongiorno e grazie della disponibilità. Buongiorno, grazie a voi, direttore insieme a Fiorenza Menni, col quale condividiamo il percorso. Assolutamente. Siamo qui in conferenza stampa per la presentazione della nuova stagione 2022-2023 di Atelier C e la programmazione si apre il 30 settembre, questo venerdì, con un multispettacolo, possiamo chiamarlo così, anzi l'avete chiamato voi in conferenza stampa, una sorta di piccolo festival, perché sono cinque opere in un giorno. Sì, questa è una caratteristica degli opening del SI, questo ormai è il nono, quindi siamo alla vigilia del decimo, che per noi sono proprio delle forme di condivisione del modo in cui poi si svilupperà il programma. Quindi ci piace punteggiarlo con diverse discipline, diversi appuntamenti, in questo caso cinque spettacoli, cinque movimenti dell'anima. Esatto, movimenti dell'anima, che poi è un po' anche il concept di tutta la nuova stagione di Atelier C, che si chiama Anima, e avete scelto anche cinque verbi, diciamo, che rispecchiano un po' questi spettacoli, che sono sorgere, esporsi, mutare, vibrare e risonare. Una scelta sicuramente particolare. Sì, diciamo che per noi appunto la manifestazione dell'anima diventa interessante quando va verso l'incontro. Quindi in questo caso ci interessava mettere a fuoco cinque momenti di questo passaggio dalla genesi in qualche modo della propria autopercezione all'incontro con l'altro. E quindi sono appunto cinque verbi, cinque momenti che a partire dalle 18 fino a notte verranno attraversati dagli artisti, le artiste, noi e il pubblico che verrà. Dicevamo appunto dalle 6 alle 24, quindi insomma tanto tempo per stare dentro l'Atelier C, e l'entrata è a biglietto unico, tra l'altro accessibile, anche questa è una scelta molto precisa. Sì, sono €10 per tutta la serata, per cinque spettacoli. In questo momento preferiamo appunto organizzarci perché non sia un problema grave economicamente poter venire. Ci sembra fondamentale, importante, ci sembra un diritto essenziale l'arte, quindi metterlo a livello di una piccola spesa. Certo, assolutamente, appunto, di una spesa accessibile. Ritornando un po' a questa prospettiva, come dire, multidisciplinare, porterete avanti all'interno appunto di tutto il programma dell'Atelier C. Sì, danza, arti visive, arti performative, arti cinematografiche e musica caratterizzeranno questo opening, questa serata di venerdì e poi tutto il programma. Perfetto, grazie mille Andrea. Grazie a voi e a venerdì.